Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche della scuola, dopo alcuni allarmi lanciati per le dichiarazioni di ieri del ministro Azzolina. Anche oggi è tornata il ministro è tornata sul tema di come riapriranno le scuole, in primo luogo di quando riapriranno le scuole, confermando la data del 14 settembre, mentre il 1 settembre integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. E poi ha parlato anche delle risorse, così come il ministro Gualtieri è tornato sul tema delle risorse in audizione e anche sullo scostamento di bilancio, e ha detto che con il decreto di agosto saranno destinati alla scuola 1 miliardo e 300 milioni. Poi c'è tutto il tema dei banchi e delle aziende che segnalano in maniera anche con forza che i tempi non sono adeguati per riuscire a garantire le forniture, quindi la gara pubblica europea per l'acquisto di 1,5 milioni di banchi monoposto e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo, che da quello che si è capito dovrebbero essere i banchi con le rotelle, al di là del linguaggio burocratico del bando di gara. Parleremo poi del decreto agosto, perché mobiliterà 32 miliardi ed ecco appunto che, perché domani si inizia ad esaminare lo scostamento di bilancio da 25 miliardi. Scostamento di bilancio vuol dire soldi che tu spendi in più rispetto a quelli che avevi previsto nel precedente bilancio. È relativamente agevole come definizione, ma tra l'altro sarà anche l'occasione per parlare del decreto agosto da questo punto di vista, perché fino adesso il deterioramento del quadro economico è costato allo Stato 52 miliardi e mezzo in termini di competenze e 51 in termini di cassa, e quindi da finanziare ci sono 392 miliardi, mentre l'ultima legge di bilancio ne prevedeva 129. Gualtieri ha detto che c'è stato un forte rimbalzo nel terzo trimestre e che proseguirà l'attività di sostegno alla liquidità, e conferma che il rinvio delle cartelle delle rate per le tasse sospese. Ascolteremo Gualtieri nei suoi vari interventi. Poi c'è stato l'intervento di Silvio Berlusconi, che ha detto è sbagliato dare per scontato il sì di Forza Italia allo scostamento. Sapete che insomma al Senato il governo rischia, e nel vertice centrodestra è stato detto che il voto favorevole allo scostamento di bilancio dipenderà dalle risposte del governo. Poi ci sono anche altri dati sull'ufficio parlamentare di bilancio e sulla cassa integrazione. I mercati: per quello che riguarda Milano il calo dello 0,60%, mentre per quello che riguarda Parigi dello 0,1%, Francoforte invariata, Londra più 0,30%, Dow Jones meno 0,32%. UbiBanca oggi recupera l'8,10%, Campari il 4,92%, Italgas il 3%, e ancora Fiat Chrysler il 2,5%, Amplifon l'1%. Perde Steam Microelectronics il 4,80%, Moncler il 4,40%, Interpump meno 2,60%, Prismia meno 2,30%, Nex meno 2,20%, come Banca Generali e FinecoBank, Buzzi Unice meno 2%, Azimut meno 2%. Perché UbI così forte, dopo che ieri invece il titolo aveva ceduto proprio perché era finita, non era più possibile comprare le azioni per conferirle poi a Banca Intesa con l'offerta pubblica? Perché la Consob ha disposto la proroga d'ufficio del periodo di adesione, quindi si può tornare a comprare azioni UbI, ecco perché il titolo si riporta a quel livello, per poi portarle a Intesa San Paolo per altri 2 giorni, e quindi si concluderà il 30 luglio del 2020. E, da questo punto di vista, appunto, solo per oggi quindi sarà possibile accettare azioni UBI e poi acquistare azioni UBI e poi aderire all'OPAS e quindi ottenere la riconversione di una 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI più un premio di 57 centesimi ad azione. E come la Consob ha riaperto la finestra, il titolo si è rimosso verso i livelli dell'offerta. È molto diciamo chiaro quello che è successo sul mercato. Faccio notare che anche il patto di sindacato che riunisce alcuni azionisti di UbiBanca, il CAR, ha deciso di aderire all'OPA. A questo punto, con l'adesione di tutto il CAR, il patto dei grandi soci, quindi i grandi soci di UBI, sono salite al 60% le quote del capitale di UBI conferite all'offerta pubblica di Intesa. Ieri l'offerta era arrivata al 52%, perché aveva aderito il fondo Silchter, che aveva l'8,5% del capitale di UBI, e con il CAR si arriva al 60%. Ricordo che per essere un successo totale l'offerta pubblica deve superare la soglia del 66,7%, perché deve superare per andare a buon fine il 51, ma soprattutto il 66,7, perché quello è la quota che ti permette di convocare e controllare l'assemblea straordinaria. A questo punto però, avendo già raggiunto il 60% e avendo anche questa giornata di contrattazioni, sembra abbastanza scontato che si arriverà al 66,7%, anche perché adesso può comprare chi non aveva azioni UBI e solo per oggi, quindi ha riaperto la finestra, ed è immaginabile, visto l'andamento del titolo, che qualcuno, che più di uno stia comprando, il titolo guadagna l'8-10% per poi consegnare l'Intesa, altrimenti dopo perdi il 40% del valore se l'operazione andrà in porto. Ma mancano ancora i grandi fonti e i grandi fondi e gli arbitraggisti, che hanno tempo fino al 30 di luglio. Ora, se siamo già al 60, più la giornata di oggi, più i grandi fondi, tutti danno per scontato che l'Intesa riuscirà a raggiungere il 66,7%. È chiaro che questo poi porterà automaticamente anche un cambio nei vertici di UBI, visto che i vertici di UBI, Massià in primis, si sono sempre opposti con fermezza all'offerta di Intesa San Paolo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. Ne abbiamo parlato anche ieri, ma oggi continua la corsa dell'oro. I futures hanno toccato per la prima volta nella storia i $2,000 all'oncia. Poi c'è stato un recupero del dollaro che ha riportato le quotazioni 1963, e poi oggi contratto spot a $1,938 l'oncia, un leggero calo. Il petrolio resta a $41 al barile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi invece rileva che le pandemie di Covid sarà una grande ondata non stagionale che andrà su e giù. La gente sta ancora pensando alle stagioni, ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso. Vabbè, insomma, prendiamo atto di un'ennesima dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Invece l'Organizzazione Mondiale del Commercio stima in 320 miliardi le perdite dovute al turismo mondiale da gennaio a maggio rispetto all'anno prima. Tra gennaio e maggio, quindi non stiamo parlando della stagione estiva per quello che riguarda l'Italia, il numero dei turisti internazionali è crollato del 56%, sono 300 milioni di visitatori in meno. E l'agenzia teme per il 2020 la perdita tra i 100 e i 120 milioni di posti di lavoro a livello mondiale nel settore turismo. E gli Stati Uniti, alle prese con alcuni stati dove l'epidemia è difficilmente sotto controllo, mettiamola così, hanno deciso, o meglio lo ha fatto la Banca Centrale Americana, di estendere i piani di emergenza finanziaria fino alla fine del 2020. Questo permetterà di continuare con gli acquisti di titoli di Stato e i prestiti alle piccole e medie imprese. Veniamo all'Europa. La Banca Centrale Europea ha chiesto alle banche di evitare di pagare dividendi fino al prossimo anno e di essere estremamente moderate nella politica di remunerazione variabile, ossia dei bonus ai vertici dei gruppi bancari. E quindi ha allungato la raccomandazione che già aveva fatto, portandola fino a ottobre. E anche la Banca d'Italia, alla luce dell'indicazione della Banca Centrale Europea, ha aggiornato le proprie raccomandazioni in marzo e ha scritto alle banche vigilate chiedendo appunto uno stop dei dividendi fino a gennaio 2021. Questo per le banche considerate significative. Alle banche meno significative di non pagare i dividendi relativi agli esercizi 2019-2020, IVA incluse le distribuzioni di riserve, e non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi agli stessi esercizi e non procedere al riacquisto di azioni mirate a remunerare gli azionisti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la banca, come altri soggetti, può fare comprare azioni proprie sul mercato, chiaramente, e in questo modo alzare il valore del titolo e dare un vantaggio appunto agli azionisti dal punto di vista del valore del titolo. E la Banca d'Italia ha chiesto che venga evitata anche questa operazione. Allora, veniamo adesso all'intervento del Presidente del Consiglio Conte in aula al Senato, dove si è parlato in primo luogo di stato di emergenza, ma non solo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, il 15 ottobre dovrebbe essere questa la data di proroga dello stato di emergenza indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. Il testo, quando si apprende, ancora in fase di limatura, ma insomma il Presidente del Consiglio ha detto che è doveroso condividere con le Camere lo stato di emergenza, quindi pur in assenza di un vincolo normativo. Lo stato di emergenza serve per reagire con tempestività ed efficacia, è previsto dal codice di protezione civile ed è vagliato dalla Corte Costituzionale. Tra i poteri che consente il potere di ordinanza, quindi norma in deroga a ogni disposizione vigente nei limiti indicati dalla dichiarazione di emergenza nel rispetto del principio generale dell'ordinamento. Sarebbe incongruo, aggiunto Conte, sospendere bruscamente le misure adottate, visto la loro efficacia, se non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità. Dal 31 luglio, data di cessazione dello stato di emergenza, sono correlati numerosi termini contenuti in provvedimenti normativi di rango primario, anche secondario, adottati durante lo stato di emergenza. Come è noto, molte disposizioni assumono come riferimento temporale della loro efficacia la cessazione dello stato di emergenza, quindi è un riferimento temporale per relationem, mentre altre prevedono termini di efficacia a date diverse, ma comunque anche qui determinate per relationem, ma alla data di scadenza dello stato emergenziale. E poi Conte dice: vi sono ancora effetti del Covid, ma contenuti e circoscritti. Tra le misure che perderebbero effetto se non vi fosse la proroga dello stato di emergenza c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti, e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per la tutela della sanità pubblica. Senza la proroga dello stato di emergenza cesserebbe il coordinamento attribuito alla protezione civile, così come i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti di regione. Decadrebbero anche 38 ordinanze, di cui 4 al vaglio della ragioneria di Stato. Ad esempio le misure di gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone positive, il volontariato di protezione civile, il reclutamento di personale sanitario, il pagamento dilazionato delle pensioni negli uffici postali, l'attivazione del sistema GROS per la ripartizione e trasferimento dei pazienti in altre regioni. La proroga è inevitabile, ha detto Conte, il virus continua a circolare. E da questo punto di vista ci sono invece anche delle dichiarazioni della Banca d'Italia in audizione, perché lì qualche notizia più positiva sta arrivando. Ascoltiamo Fabrizio Balassone in audizione alla Commissione Riunite Bilancio e Camera del Senato. Ha detto l'incertezza è elevata, ma da maggio esistono segnali di miglioramento del PIL. Mi fanno prenotare in regia che si è bloccato il sistema, quindi gli audio li ascolteremo più avanti. E sempre Balassone ha detto che per quello che riguarda le riforme di cui necessita il nostro paese, andranno delineati in tempi rapidi progetti di investimento e di riforma lungimiranti. Per la crescita, ha continuato la Banca d'Italia, non basta più un binomio spesa e meno tasse, perché serve uno sforzo straordinario di programmazione e una capacità di realizzare poi quanto programmato che non sempre il Paese ha mostrato di possedere, visto le risorse che poi saranno disponibili, che saranno anche ingenti. Sul MES, la Banca d'Italia, perché sto chiesto a Balassone quali sono le condizionalità. Dunque, Balassone ha detto, guardate che se mi si chiede se poi non siamo in grado di ripagare il debito, è l'ultima preoccupazione che dobbiamo avere, perché se non dovessimo essere in grado di ripagare il debito, cioè i 36 miliardi a cui avremmo diritto, vuol dire che la situazione si sarebbe così aggravata che la preoccupazione non sarebbe tanto il MES, ma sarebbe la tenuta del debito italiano. Tradotto, voglio dire, siccome il MES, al di là delle posizioni ideologiche, puoi chiedere al massimo 36 miliardi, 2 punti di PIL, e visto che il nostro debito pubblico ormai ha toccato i 2.409 miliardi di euro l'anno scorso, continuerà a salire, se diciamo tu non fossi in grado di pagare 38 miliardi su 2.400 di debito che hai fuori, il problema non sarebbero i 38, sarebbe tutto il resto del debito. Questo è il ragionamento di Balassone. E chi ha detto l'unica condizionalità che esiste nel MES è l'utilizzo per spese sanitarie o dirette o indirette. Non ci sono condizionalità come quelle dei programmi tradizionali, del MES tradizionale. È un programma di scopo, ti permette di chiedere quei soldi a prestito con interessi sotto zero all'inizio e bassissimi nei mesi successivi per le spese sanitarie. Ho spiegato in tutti i modi possibili che andando a chiedere gli stessi soldi sul mercato con un BTP a 10 anni, perché poi il MES si paga anche di là col tempo, ma dicevo andando a chiedere lo stesso prestito per 10 anni pagheremo 500 milioni al rendimento attuale dei BTP, circa 500 milioni immaginando 38 miliardi di prestito, 500 milioni all'anno in più di interessi, addirittura c'è chi ha stimato anche 700, quindi 5-7 miliardi sono 5-7 miliardi nell'arco di 10 anni. Faccio notare che i prestiti MES sono sì senior rispetto al debito nazionale, perché vanno pagati per primi, ma ripeto, quando tu pensi a quello che è l'ammontare che dobbiamo finanziare ogni anno di debito, non è che devi pagare per primi 34 nel tempo, chiaramente 34 miliardi che ti cambia le cose, a mio avviso. Comunque, faccio notare che il BTP a 10 anni avvale più o meno l'1,60%, adesso poi è uscito anche l'1,30%, il prestito del MES avrebbe un tasso di interesse dello 0,08%, per cui io non capisco veramente. Le opposizioni, andiamo sul meteo e la pubblicità? No, perché continua a essere bloccato il sistema, ma vedo che c'è, scusatemi per l'audio, ma si è bloccato proprio il sistema in regia. Vedo che c'è Andrea Gagliardi del Sole 24 Ore in collegamento, con cui parleremo di scuola in maniera un po' così rocambolesca, perché se manca il funzionamento del mixer in regia e gli audio non possono essere fatti partire. Lo dico a chi mi sta scrivendo, ma cosa è successo alle basi, cosa è successo all'audio? Questo è successo, che si è bloccato il sistema. Allora, speriamo non si blocchi invece la scuola da settembre. Andrea Gagliardi, buonasera. Ciao, buonasera. Dunque, oggi il Sole 24 Ore ha aperto la prima pagina sulle preoccupazioni anche dei produttori di attrezzatura scolastica, in primo luogo i famosi banchi, non solo i banchi con le rotelle. La gara che ha annunciato il ministro per l'emergenza Covid, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Arcuri, su richiesta della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, la gara pubblica europea è per acquisire in totale 3 milioni di banchi, 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovative. Le imprese devono assicurare, oltre un numero minimo di banchi tradizionali o sedute attrezzate innovative, anche l'imballaggio, il trasporto e la consegna dei prodotti entro il 31 agosto. La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata per il 30 luglio e la sottoscrizione dei contratti avverrà il 7 agosto. Quali sono? Abbiamo visto, ieri era ospite con Laura Bettini, cos'è quest'estate, Emidio Salvatorelli, titolare di Vasta Arredo, che è la più grande azienda di arredo scolastico. Non ve lo posso far sentire perché appunto c'è un sistema bloccato, ma ha paventato un'incapacità di arrivare a rispettare i tempi previsti, che è la stessa problema che segnala anche a Sufficio, che è l'associazione di Confindustria che si occupa appunto di arredamento per ufficio. Qual è la situazione? Allora sì, diciamo che i produttori hanno segnalato questo problema di tempi troppo stretti, cioè in 20 giorni tra il 7 agosto e il 31 agosto bisognerebbe produrre circa 3 milioni di pezzi, cioè fra banchi tradizionali e quelli monoposto tradizionali, questi innovativi con le rotelle. In realtà il totale di banchi richiesti dalle scuole, dal monitoraggio che è stato fatto al Ministero dell'Istruzione, è leggermente inferiore a 2.400.000 euro. Comunque si tratta di numeri enormi e quindi i produttori sottolineano il fatto che l'impossibilità tecnica di produrre banchi rispettando tutti i requisiti di qualità e tecnici questo periodo così, questo lasso di tempo così limitato, e quindi il rischio di una gara, apparente rischio di una gara deserta. Molti hanno già detto che non si presenteranno, che non presenteranno l'offerta perché non ci sono le condizioni tecniche per partecipare. È vero che comunque si tratta di una gara europea, quindi in teoria chiunque può partecipare, potrebbe arrivare quindi un'offerta da un altro paese e se risponde ai requisiti che si ha al bando, quindi potrebbe essere aggiudicata da un'azienda della Romania. Ecco, scusami, esatto, scusami Andrea, paese. Ecco, quello che voglio capire io è questo, perché servono 3 milioni, di cui 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo. Ecco, ora, non ti interrompo, non è che servono, in realtà questa diciamo è il bando prevede di produrre fino a questa situazione, sì, certo. Diciamo. Poi in realtà le richieste sono state delle scuole sono state inferiori, si parla di 2004 e fra l'altro se non vado errato la maggior parte delle scuole ha chiesto anche soprattutto banchi monoposto tradizionali piuttosto che questi innovativi, per i quali il bando prevede fino a 1,5 milioni di pezzi. Allora, le scuole chiedono altro, esatto. Allora, su questo vorrei tornare, visto che il sistema è ripartito, così possiamo far ascoltare sia Lazzolina che Salvatorelli, però capire con te, la domanda mi arriva dagli ascoltatori, ho capito che è molto difficile che le imprese nazionali possano produrre tutto fino a 3 milioni in totale di pezzi, però diciamo uno potrebbe anche partecipare per una quota a parte, nel senso poi il bando europeo, e non perdere comunque l'occasione. Vorrei capire perché invece di questa resistenza, però ascolteremo anche le voci dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, visto che siamo in grado di avere di nuovo l'audio, che non è male in una radio, ascoltiamo il ministro Azzolina che ha riconfermato che a settembre la scuola riparte e poi invece... Beh, sentiamo Azzolina intanto. A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'aula e ribadirlo con chiarezza per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apocalittici. Ho firmato lo scorso 24 luglio l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni dal 14 settembre. mentre dal 1 settembre, come previsto dall'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, numero 11, si svolgeranno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte quelle studentesse e quegli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ma anche per tutti quelli che i docenti vorranno coinvolgere. E sentiamo invece appunto al microfono la nostra Laura Bettini in Ma cos'è quest'estate, Emidio Salvatorelli, titolare di Vasta Arredo, che è la più grande azienda di arredo scolastico in Italia. La mia società, insieme ad altre società, siamo associati a Federlegno, perché in questi momenti dobbiamo avere un'unione e capire bene il da farsi. Per fare 200.000 pezzi ci vuole 1 milione di chili di acciaio. Che lei in questo momento non ha, nel senso che lei non pensava di dover fare 200.000 pezzi, no? Nessuno, certo. Può avere, anche perché io faccio una gara, ci sono i competitors, quindi non è detto che io vinco la gara. Solo se io lo so prima, sono da solo, allora mi posso approvvigionare di 1 milione di chili di acciaio. Ma non sapendolo, quindi il giorno 10 di agosto devo andare dal fornitore di acciaio e chiedere di farmi avere 33 autotreni di materiale da lavorare. Non so chi al mondo possa fare questo, non in Europa, perché il ministro dice una gara europea. Io non lo so, solo se io lo faccio prima posso riuscire a organizzarmi. 33 autotreni di acciaio, cioè solo così a vederli, sono tantissimi. 44 autotreni di pannello truciolare per fare questo lavoro non è facile. Io ho sentito tutti i fornitori. I fornitori in questo momento, prima si sono dovuti fermare, ma adesso sono pieni di lavoro. Loro consegnano a 4 settimane. Abbiamo avuto contatti con la segreteria del commissario straordinario, gli abbiamo fatto notare questo, come Federlegno, gliel'ha detto il presidente di Federlegno, cioè non io, non ci hanno voluto ascoltare. La nostra non è una polemica, noi viviamo nel mondo reale, prima di fare un lavoro sono un imprenditore, mi devo informare per rispettare gli impegni che vado ad assumere, anche perché poi ci saranno dei risarcimenti di danni se io non garantisco quella merce quel giorno, perché le scuole non le potranno aprire. Nel frattempo noi non è che stiamo a guardare il cielo, noi lavoriamo con tutte le amministrazioni italiane, che non è che questo tipo di gara ha bloccato gli acquisti. I vari comuni italiani hanno fatto già gli ordini e abbiamo firmato dei contratti con queste amministrazioni. Poi in 20 giorni, è troppo breve. Allora, così risponda anche chi mi dice lei non sta capendo i problemi produttivi, è un ignorante. Li ha appena spiegati, non io ma Salvatorelli. Per fare 200.000 pezzi, 200.000 banchi, servono un milione di chili di acciaio e 33, pari a 33 autotreni, più 44 autotreni di pannelli truciolari. Ora, non ci vuole un grande esperto di sistemi produttivi, di processo, Andrea Gagliardi, per capire che, e dice una cosa importante Salvatorelli: io però queste spese le posso fare una volta che sono sicuro di aver vinto la gara, non è che ordino i milioni di chili di acciaio per poi magari la gara perderla, e una volta che l'ho vinta devo avere dei tempi tecnici per fare il tutto. E secondo me, così rispondo anche a chi mi ha scritto in queste settimane, il motivo per cui non eravamo così incavolati a inizio giugno e a fine maggio, ricorderete che ho chiesto la dimissione del ministro Azzolina, era non solo sulla riapertura a giugno come facevano altri paesi, guardare quello che facevano Francia e Spagna, i tentativi a giorni alternati, mattina e pomeriggio, ma era perché a giugno non era ancora arrivato lo straccio di un'indicazione su come si sarebbero riaperte le scuole. E siccome il tempo è tutto anche in economia, cara ministra Azzolina, adesso è tardi, cioè qua, non è che si possa sempre tutto dilatare, vi siete presi in maniera totalmente colpevole, tardi, perché per sentirsi dire che servivano i banchi distanziati, abbia pazienza, il presidio medico nella scuola e le mascherine, andare in bagno uno alla volta, stiamo parlando di ragazzi che quando sono piccoli giocano in spiaggia tranquillamente tra di loro, quando hanno l'età degli adolescenti li troviamo anche nei bar, perché, per carità, no? E vi siete presi tardi. Io ho questa sensazione che ormai possono mettere le pezze che vogliono, ma l'elemento produttivo ha la testa dura da questo punto di vista. Tu puoi anche fare bandi con bandi e controbandi, ma o cambi le regole o non ci arrivi. Non so però cosa tu ne pensi. Sì, diciamo che sicuramente si è mossi in emergenza, del resto il commissario per l'emergenza e i luoghi in emergenza. Vabbè, giustificare, no, assolutamente, diciamo che i tempi sono veramente strettissimi perché, ripeto, il contratto verrà siglato il 7 agosto, quindi dal 7 agosto al 31 agosto, che è il termine ultimo di consegna dei banchi, sono 20 lavorativi, adesso non riesco a fare il calcolo, ma insomma 23 giorni, togli i festivi, insomma sono meno di 20 giorni, quindi il problema esiste. Certo, è vero che l'offerta può essere presentata nel giro del bando adesso velocemente da un operatore economico sicuro associato in consorzio, ma rimane insomma, rimangono i problemi che venivano sollevati prima da Lampadorelli. Quindi il problema resta e vedremo come andrà a finire, perché la ministra ha assicurato che ha parlato di polemiche pretestuose, ha assicurato che i banchi ci saranno e che si partirà il 14 in maniera regolare. Sembra una sfida titanica, vediamo che cosa succede, soprattutto vediamo se il bando dovesse andare deserto, perché se dovesse andare deserto sarebbe un flop clamoroso. Sì, due domande per te ancora, ma perché non si è guardato all'esempio francese o spagnolo, anche per capire cosa fare e cosa non fare? Cioè, lì hanno riaperto, mi potrei dire, alcune classi erano meno pollaio che da noi. E seconda domanda, se mi danno una risposta unica, alcuni mi stanno scrivendo: guardate che però in molte classi i banchi ci sono già, nel senso lo spazio è già attrezzato. Questa totale di fino a 3 milioni di pezzi, 1 milione di pezzi monoposto, 1 milione e mezzo di sedute innovative con le rotelle, come quella che ho sotto io qua, che è tanto innovativa che infatti se non la oli le rotelle cigolano, ma è un tetto massimo. Cioè, qual è poi la distanza sul fabbisogno reale rispetto al fabbisogno reale? Sì, allora partiamo dalla seconda, perché sulla questione francese e spagnola, dico la verità, non so perché non è stato seguito il modello, questo tipo di modello. Partiamo dalla seconda cosa: anche il bando dice che le quantità indicate di 3.000 di pezzi hanno un valore puramente indicativo nell'ambito del complessivo fabbisogno di 3 milioni di banchi sedute attrezzate innovative, saranno esattamente definite in sede di contratto, quindi in base anche alle indicazioni dei siti scolastici, eccetera. Quindi è vero che ci sono già delle scuole che sono dotate di banchi monoposto, ed è per questo che dal monitoraggio che è stato realizzato dal Ministero dell'Istruzione, la richiesta delle scuole, anche se non è una cifra definitiva, si attesta intorno a 2.400.000, che è, diciamo, una cifra comunque inferiore, ma è una cifra comunque elevata. Non credo che tra 3 milioni e 2.400.000 comunque i problemi di produzione siano, diciamo, cambi molto per quelli che sono, diciamo, i problemi tecnici e di produzione dei banchi che gli operatori del settore hanno sollevato. Vabbè, sì, no, non è solo un lotto, chi mi chiede, me lo confermi anche tu Andrea, non è un lotto, è un totale, una gara a cui possono partecipare diverse, cioè che può avere diversi lotti, me lo chiedono alcune. Sì, tra l'altro c'è un lotto A, che sono quello dei banchi monoposto di tipo tradizionale, un lotto B sulle sedute scolastiche attrezzate di tipo innovativo, e il bando, stavo rivedendo, dice che la singola offerta tecnica presentata dall'operatore economico deve assicurare per ciascun lotto un numero minimo pari almeno a 200.000 unità. Sono quelle 200.000 unità che citava Salvatorelli. Però ci ha spiegato che lui ha bisogno di 1 milione di chili di acciaio, 33 automezzi e più diventano 44 treni di pannelli truciolati. E quindi, adesso non voglio entrare, magari ce la faranno, magari no, però la domanda resta sempre la solita: perché bisogna arrivare all'ultimo minuto, dell'ultimo secondo, dell'ultimo giorno, con un bando il 7 agosto di una cosa di cui stiamo parlando da maggio? C'è anche questa questione, se ti ricordi, no, del comitato tecnico scientifico, che nelle... Ma sì, ma il CTS poi cosa ha detto? Scusami, ti ho interrotto, non volevo. Vado avanti. No, dicevo di questa cosa del metro di distanza tra la bocca e fra le bocche, no? Quindi questo ha reso impossibile di fatto l'utilizzo dei banchi, diciamo, quelli attuali a due posti, perché è chiaro che non si può garantire una distanza di un metro tra bocca e bocca se in un banco biposto, di cui i banchi monoposto e a seguire a cascata insomma tutto il... Sì, ma io non ho niente contro il CTS, che fa benissimo e farà benissimo dire questo, bastava dirlo prima. Hanno lavorato per mesi mentre eravamo in lockdown, lavorato, diciamo, è una mia, la mia, così lo presuppongo, per mesi, aprile, maggio, nel totale silenzio, abbiamo iniziato a chiedere a fine maggio, ma si può avere qualche notizia sulla scuola? Anzi, a metà maggio neanche si sapeva se si sarebbe riusciti a rientrare un giorno in presenza. Il vice ministro Ascani diceva sì, io sono per quell'idea, l'amministrazione no, e basta, dai. Allora, dice, tutta una trasmissione sui banchi da scuola. No, ho fatto ascoltare anche Conte, avrei fatto ascoltare anche Balassone, anzi adesso recupero il file, nel ringraziare il collega Andrea Gagliardi, recupero il file della Banca d'Italia sul MES, così, visto che me l'ha chiamata, gliela do il file, in cui appunto in audizione capo del Servizio di Struttura Economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, ha detto sostanzialmente attenzione, MES l'unica condizionalità sono le spese sanitarie, e ha detto però attenzione, per la crescita non basta semplicemente il binomio più spesa meno tasse. Andranno delineati in tempi rapidi progetti di investimento e di riforma lungimiranti, concreti, dettagliati. Soprattutto tali progetti andranno attuati senza ritardi e inefficienze. E questa la condizione per garantire l'effettivo accesso ai finanziamenti previsti dal Next Generation EU. Il Programma Nazionale di Riforma, dunque, è un documento estremamente articolato. Direi che la sfida che attende il Governo adesso e il Parlamento è quella di dare contenuto attuativo alle indicazioni contenute nel PNR. L'impegno finanziario non è quantificato nel documento, ma dato il tenore degli interventi prefigurati non potrà che essere estremamente rilevante. Se queste risorse non saranno impiegate in maniera da produrre risultati importanti in termini di crescita economica e di occupazione, i problemi del Paese alla fine di questa esperienza saranno accresciuti, non alleviati. Sarebbe rischioso assumere che incrementi di spesa e riduzioni di imposte possano automaticamente tradursi in una crescita economica sostenuta e duratura, senza un impegno continuo per il miglioramento della qualità dell'azione pubblica. Proseguirà inoltre l'attività di supporto alla liquidità, che oltre a riguardare il canale bancario e finanziario potrà contare su misure di carattere fiscale. A tale proposito saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale che sarà definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà. E con lo stesso obiettivo saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto. Il Governo innanzitutto ritiene fondamentale proseguire e al tempo stesso rendere più selettiva la cassa integrazione guadagni, introducendo anche misure di sostegno alle assunzioni. Sono allo studio in questi giorni interventi che consentiranno di dare continuità alle misure attualmente in vigore, con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione, e sono all'esame interventi anche per aiutare e sostenere il mercato del lavoro a ripartire, con incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a far uscire i lavoratori dalla cassa integrazione. Vi sarà inoltre una deroga alle norme sui contratti a termine e una proroga delle procedure semplificate per il ricorso allo smart working nel settore privato. Questa estensione della cassa integrazione, che è in questo momento all'esame del Governo, avverrà anche con degli elementi di differenziazione e selezione, anche quindi con una differenziazione della platea delle imprese, e quindi chiedendo anche a quelle che possono un contributo a questo strumento, e una differenziazione che sarà probabilmente basata sui dati della fatturazione elettronica e quindi sul diverso impatto della crisi sulle varie imprese. Così il ministro Gualtieri oggi in audizione sul PNR, il nuovo scostamento di bilancio che da domani verrà votato in Parlamento. Abbiamo letto le dichiarazioni del Forza Italia ma anche del centrodestra, dice il nostro appoggio non è scontato, dipende dalla risposta del governo. Scostamento di bilancio da altri 25 miliardi che vanno a sommarsi ai, se non ricordo male, ai 55 già avuti di scostamento di bilancio, che servono per la manovra o il decreto di agosto, manovra è sbagliato, è il decreto ulteriore di agosto. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, noi di scostamento eravamo a 55 più 25 adesso, è corretto? Eravamo a 55 più 20. Più 20. Eravamo 75 più... arriviamo a 100. Esatto, ricordavo 100 miliardi in tutto, come effetto dei primi 20, poi 55, le varie misure, diciamo, emergenziali. A cosa servono questi 25 miliardi? O meglio, che cosa vi sarà, se passerà al Parlamento lo scostamento da 25 miliardi nel decreto d'agosto, che dovrebbe valere in tutto 32 miliardi? Ma allora servono sostanzialmente a replicare, rafforzare e correggere le misure dei precedenti decreti sulla crisi. La fetta più larga di queste risorse, 10 miliardi circa in termini di debito, andrà al lavoro, quindi alla proroga della cassa integrazione che diceva il ministro nell'audio che abbiamo ascoltato, e con un po' di incentivi sotto forma di decontribuzione per le imprese che assumono, quindi decontribuzione iniziale per i primi 6 mesi per le imprese che assumono. Poi l'altro grande capitolo sarà quello di regioni e enti locali, a cui andranno altri 5 miliardi circa, 5,2 secondo le ipotesi iniziali, per compensare regioni, province, comuni, città metropolitane eccetera eccetera della perdita di entrate fiscali determinata dalla crisi. Sempre il fisco sarà al centro della terza, diciamo, dose di disavanzo, perché il rinvio parziale dei pagamenti che erano stati sospesi tra marzo e maggio, il rinvio agli anni prossimi, costa 3,8 miliardi, serve per dimezzare il debito fiscale che dovrà essere pagato dalle partite IVA, dagli autonomi eccetera quest'anno, e rinviare l'altra metà al 2021 e 2022. Dopodiché ci sono gli interventi per la scuola, circa 1,2 miliardi, 1,3 miliardi a cavallo tra 2020 e 2021, perché la spesa segue l'anno scolastico e non l'anno solare. Servono in particolare ad assumere i docenti necessari a ridurre un po' il numero di studenti per classe e a comprare, a intervenire sulle strutture e comprare i famosi banchi con le rotelline. No, ti prego, ne ho parlato fino adesso, salterei volentieri il tema adesso. Hanno un costo e quindi... Allora, la cosa importante è capire che, poi sappiamo, più volte abbiamo detto che il problema è quando e come e con che velocità i soldi sono arrivati, ma a marzo il governo fece il primo decreto di emergenza, 25 miliardi di scostamento, cioè 25 miliardi in più rispetto a quello che tu pensavi di dover aver bisogno e che avevi messo, diciamo, no, nella manovra. Sì. Poi a maggio altri 55 miliardi con il famoso DL rilancio, che io ho chiamato DL ristoro, e adesso il decreto agosto 32. Ecco perché la somma fa sostanzialmente più di 100 miliardi. Perché lo dico? Sono 110 miliardi, perché la cifra è imponente, c'è uno scostamento da 100 miliardi, vuol dire uno scostamento di 4 manovre finanziarie, Gianni, no? Perché più o meno la manovra valeva 25 miliardi all'anno adesso, cioè come se tu avessi fatto 4 manovre di scostamento invece che in 4 anni in 4 mesi, tant'è che il livello massimo del saldo netto da finanziare è di 392 miliardi, mentre secondo l'ultima legge di bilancio doveva essere di 129 miliardi. Te lo chiedo perché, da quello che tu hai capito, dopo il decreto agosto vi sarà un altro scostamento, dovrebbe essere, diciamo, per un po' finito lo scostamento di bilancio? Beh, dovrebbe essere l'ultimo, anche perché con questo scostamento, che è più alto di come dei livelli massimi che pensavano di poter, diciamo così, reggere di poter portare avanti al Ministero dell'Economia, sostanzialmente si esauriscono gli spazi fiscali, anche quelli emergenziali. Questo è un problema perché siamo appunto a fine luglio, questo presuppone che non ci sia nessun nuovo intervento sostanzialmente in deficit fino al 1 gennaio 2021, al netto dei possibili ricorsi ai prestiti europei, cioè allo SURE, in particolar modo per gli ammortizzatori sociali, e ovviamente al MES per quanto riguarda le spese sanitarie dirette. Lo voglio dire perché poi ognuno può pensare come vuole. In questo momento, avendo noi già fatto uno scostamento di bilancio con quello che si verrà votato con l'ultimo, in totale per più di 100 miliardi, diciamo, le risorse sono finite. Ora, o tu immagini che poi ottobre, novembre, dicembre non vi sia più bisogno di fare nulla, o devi ricorrere allo SURE, che è il meccanismo, una delle quattro gambe del tavolo, che ti permette di finanziare la cassa integrazione, perché come Gianni Trovati ricordava, una fetta importante anche nel decreto agosto se la prenderà la cassa integrazione. E se poi dovessi avere altre spese, visto che altri fondi non arrivano, perché il recovery fund, sappiamo tutto, l'abbiamo spiegato mille volte, un 10% può essere anticipato, ma poi grosso, oppure dovrai ricorrere al MES, a meno che tu non voglia indebitarti sul mercato. Poi uno può fare tutti i ragionamenti che vuole, però non si può prescindere dai conti di finanza pubblica. Senti, tu hai un'idea, è più una battuta che una domanda forse, di come potrà essere la finanziaria poi a ottobre? No, non c'era. Perché ne abbiamo fatte quattro, ne abbiamo fatte tre a sto punto di finanziarie già. Sì, e peraltro va ricordato che le finanziarie di solito non sono tutte in deficit, un po' di no, è vero. Le fanno, e poi una parte di deficit per la quota non coperta dalle entrate, quindi in verità qui a livello di deficit è come averne fatte 8-10 di Bravo. Finanziarie. Come sarà la prossima legge di bilancio dipenderà moltissimo, direi per l'80%, dai progetti che riusciremo a mettere in campo per utilizzare i fondi europei del Recovery Plan, perché senza quelli sostanzialmente è anche inutile mettersi a ragionare di una legge di bilancio che non può ulteriormente aumentare un debito pubblico che arriverà vicino al 160% del PIL, se non sopra, come ha detto stamattina l'Ufficio parlamentare di bilancio. Quindi tanto utilizzo dei fondi europei, e poi c'è in ballo di riforma fiscale che però non può essere direttamente finanziato dai fondi europei, e quindi dovrà trovare coperture. Ancora una volta ci sono i tagli agli sconti fiscali che tutti i governi provano. Adesso andremo con noi e vedremo come andrà la votazione parlamentare. Grazie a Gianni Trovati, c'è il GR24, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.